Quando eventi caotici si susseguono rapidamente e sfuggono alla presa dei responsabili politici, giunge un momento in cui il cittadino comincia a interrogarsi, poi ad allontanarsi dalla politica, a indignarsi e a scandalizzarsi per ciò che osserva. Infine arriva a rivoltarsi. Siamo a questo punto? Il nostro universo economico è ormai dominato dallo sviluppo abnorme di una finanza globalizzata, la cui crescente instabilità è all'origine delle crisi più recenti. Wall Street è la chiave di volta, simbolica e reale, dell'attuale capitalismo finanziario. Simbolica perché questa specifica piazza finanziaria incarna, tuttora, nell'immaginario comune, il mondo della superpotenza della finanza. Reale perché su questa piazza, comprese le sue ramificazioni europee, si concentravano nel 2009 i 2/5 circa delle capitalizzazioni borsistiche mondiali e, nel corso dello stesso anno, i 3/5 degli scambi mondiali di azioni.